Buonasera a tutti, grazie per essere qui, un'occasione particolare oggi perché presentiamo un progetto molto particolare e anche la modalità è diversa dal solito per chi è già venuto in altre occasioni. Oggi, a differenza di quello che facciamo solitamente, non si tratta di una performance dal vivo, ma invece presentiamo questo lavoro di Pietro D'Agostino che si chiama Audio Docs Untitled. Immagino che voi che siete qui abbiate già un'idea del progetto e di cosa si tratta, però questo sarà spiegato con dovizia dei particolari dell'artista stesso. Abbiamo qui con noi, e ci fa molto piacere, Giuseppe Carrera, che appunto ci aiuterà a entrare un po' più in profondità anche in questo lavoro da diversi punti di vista, e noi confidiamo anche nel vostro interesse attivo, nella vostra interazione, perché speriamo che questo incontro sia appunto anche fonte di spunti nuovi, anche soprattutto inaspettati, e che ci possa comunque dare stimolo per approfondire non soltanto il lavoro in sé, ma anche la modalità di approccio, che mi sembra molto, molto particolare. Allora, l'oggetto lo conoscete, credo, adesso ve lo mostriamo. L'abbiamo qui. È un oggetto molto particolare, molto dato nella sua essenzialità, nel dettaglio. Mi sembra importante sottolineare che questi oggetti sono stati tutti realizzati a mano, non sono una produzione industriale, sotto la supervisione attenta di Pietro, che su ogni particolare ha dato poi il suo via libera. Non dirò nulla adesso su che cos'è questo oggetto e su come funziona, perché questo lo lascio spiegare a chi può farlo meglio di me. Vi dico soltanto che all'interno di questo oggetto c'è un QR code che permette di raggiungere i contenuti, cioè le cinque composizioni che fanno parte di questo lavoro, che possono essere interamente ascoltate e che possono essere anche scaricate attraverso un codice che troverete all'interno per chi lo acquisterà, che è un codice univoco e permette appunto di scaricare questo lavoro alla massima qualità possibile, quindi una qualità di ascolto ottimale. La particolarità di questo oggetto, oltre che l'aspetto estetico, è quella che trovate più al tatto che alla vista. Se non ci fate molta attenzione potrete non accorgervi che qui c'è un piccolo pulsante che attivato fa partire proprio il titolo del lavoro, cioè il titolo dell'intero progetto, che è questo. Questo è il titolo. Per i contenuti poi si rimanda appunto al QR code di cui parlavo prima. Io adesso, una volta fatti gli onori di casa, non prenderei troppo tempo, non mi dilungherei oltre, ma invece darei la parola, non so come facciamo, iniziare. Pietro, vuoi dire qualcosa tu? Così parlo tu. Sì. Due parole di benvenuto. Grazie a tutti di essere qui. E intanto, proprio perché parlavamo di un lavoro artigianale, no, della fattura del cofanetto, c'è qui Angelo Loredi, che ringrazio tantissimo perché è stato lui il realizzatore poi del lavoro. E, però detto questo, dandovi il benvenuto, partirei però subito con un ascolto, e lo vorrei fare in un ambiente oscurato, proprio come la pratica dell'acusmatico, dove c'è una fonte sonora ma non si sa, no, da dove proviene, cioè non c'è la presenza fisica di chi emana questo suono. E questo è proprio per cominciare ad entrare proprio in maniera approfondita all'interno dell'ascolto, perché questo è un lavoro sull'ascolto e chiaramente sul suono. Oscuriamo l'ambiente e buon ascolto, poi riprendiamo appena termina questo brano. Si tratta dell'Audio Docs Untitled numero 3. colline fuori fuoco, trafila genetica, milieu, ora di ciliazioni di uranio simili al nero palpebrale. Scoccare, crescere, tessere in giro. Usati prevalentemente per la caccia alla piccola selvaggina di penna, più forti ed efficienti vettori, le estremità munite di soli, più brillanti della quarta grandezza, estroflettere, volgersi, annodarsi, infiammare. Una flotta di piccoli caccia, una lunga concatenazione degli atti. Sono proprio queste piccole terre emerse, pleistoceniche e umane, esubiazioni. Mari emittenti vocali, emitteri. Generalmente alato il maschio, privo d'occhi, sclerificate ali cornee, dorate, indurite in memoria d'abisso, tegumento poco consistente, mente corrugata, bianco agli apici, alle punte, bianco al margine del corpo. Tendo gli occhi al proprio cielo, cielo interno agli occhi. Sente il cielo dietro l'occhio, comprime spazio, lo spazio aereo del volto. Bianco se riprende l'aria. È l'imbocco del tempo, è l'indolore, piccolo sgrego, è la valle dove la vita si dà alla vita. Fino a qui tutto era ancora steccato di carne, ora ti aprono un buco più grosso che porta via pure le acque, come scendere giù dalla ferita. Si consideri un oggetto, l'immagine primaria dell'oggetto. Un ampio foglio di elementi uniti, grigio o biancastro, macchia. Si consideri un oggetto. Orizzonte di asperità scomposto da tessellature, sempre rotoli, affetta da aberrazioni. Come sa, sono una persona sensibile, ma solo all'intensità luminosa. Tu aderirai col muso alla terra, poggerai i piedi fino alla saldatura, oppure sarai la bestia senza pelo, la bestia che scuce, ma solo per rientrare. Fogli e strati sovrapposti, corte parzialmente fusi, ogni gravità incappellare dovute al sollievo. Specchio, l'immagine rafferma, premeggiata del mare dentro. Il punto di intersezione tra i raggi è il luogo dove si forma l'immagine, dove si ferma. Chi governa l'immagine governa il mondo, dice Giordano Bruno a proposito dei maghi. Bisogna dunque costantemente piegare e dispiegare le immagini. Due assi in croce che danno l'uomo e lo scafalco dell'uomo puntano in opposte direzioni. Il nostro paziente lavoro, quello di assomigliare, avere. lo stesso contatto dello zoppo. Senti gli occhi alle nubiate, le parole sfregamenti, la fantasia di spettri e tutto impossibile, mititudine. L'oidio non è odio, ma forza d'attrito. Dennis Gabor, trafitto da luce coerente, assimilabile a un reticolo coerente. Dennis Gabor, intriso dalla sua stessa immagine, là è una foglia, una radice di bianco, luce, si diffonde, luce già bianca, già perduta e si è. Dennis Gabor congela l'immagine, risolve piani atomici, legittimo è solo ciò che si abbandona, poi scompare. L'uomo dei ghiacci comprende ben 14 frecce di vigore. effetto vela della cuspide, stesso elemento, stesso modo, il volo. Cuspide di freccia, scheggiate di un colore rete, ala a spalle orizzontali in selce bianca, punta ad arette mozze in bianca incandescente. Sogni in ocra rossa, la freccia comunque ruota nel suo volo. Personaggi sonori. Per i suoni, Stefano Covolo, Luca Tilli, voce sola, Marta Raviglia. Per i testi, Giorgio Maria Cornelio, Alessandra Greco, Fabio Orecchini. Le esecuzioni sono degli autori stessi. Ideazione, sceneggiatura visiva, montaggio e regia, Pietro D'Agostino. Post produzione e missaggio, Marco Resovaglio. Eccoci, abbiamo completato il primo ascolto, qualche piccola esitazione, speriamo che sia stato comunque fruibile. Pietro, a questo punto direi... C'è stata questa scelta di fare prima un ascolto, prima di dare un po', no, delle informazioni sul lavoro in sé. E infatti vorrei fare proprio una breve introduzione al progetto, nella sua ideazione e poi nel suo sviluppo. E, praticamente il tutto parte da un punto di domanda che mi sono fatto, insomma, un po' qualche tempo fa. Partendo da una considerazione, quando si realizza un film, un documentario o comunque un prodotto di immagini in movimento, di solito si parte quantomeno da un soggetto e comunque da una sceneggiatura scritta e da questi elementi poi si passa alla realizzazione dei suoni e delle immagini. E per poi avere un po' appunto un prodotto finito, no? Che possiamo definire filmico in tutte le sue accezioni. E la mia curiosità, il mio punto di domanda è stato questo: ma se io invertissi questo processo, questo procedimento, che cosa potrebbe accadere? Per cui partire degli elementi visivi per poi approdare a un prodotto solamente sonoro. Chiaramente il processo non è invertito completamente, però ci sono molti elementi che vanno in questa direzione. Per cui e sempre lavorando sugli stessi termini che vengono utilizzati in ambito filmico, ho realizzato due elementi. Uno, una sceneggiatura però visiva, di sole immagini, un video praticamente. E poi una scaletta che potremmo considerare un copione, no? A cui assegnare le parti poi agli autori che di volta in volta nei 5 audiodoc ho coinvolto e hanno partecipato. Praticamente ho così utopicamente pensato di questi autori, di considerarli, oltre che a dei musicisti e a degli scrittori, chiaramente scrittrici anche e musiciste, dei personaggi sonori. Ecco, questo è stato un po' il mio punto, no, di riferimento, di aspirazione, diciamo così. E pertanto ecco, la realizzazione di questa sceneggiatura appunto visiva, a cui ho di volta in volta assegnato delle parti agli autori che mano a mano ho invitato. Per fare un esempio, se una sceneggiatura durava 10 minuti, a un autore assegnavo la parte dal minuto 2:50 al minuto 3:20, all'interno di questa porzione temporale da visualizzare su questa sceneggiatura visiva, l'autore, l'autrice che sia, produceva il suo intervento. Praticamente dopo aver ricevuto tutti questi materiali dagli autori invitati, ecco, poi l'altra cosa è che comunque tutti sapevano se stavano in una parte in solo oppure se c'era una parte che stavano in dialogo con un musicista o un altro scrittore, però nessuno chiaramente sapeva quello che faceva l'altro, ecco, c'era anche questo aspetto qui. E tutti comunque conoscevano la sceneggiatura, il copione, chiamiamolo così, nella sua interezza, per poter avere conto, no, dello sviluppo di quello che potrebbe essere poi il risultato finale. Poi con i materiali audio che loro mi hanno restituito, ho seguito in maniera molto sistematica le parti assegnate sulla scaletta, sul copione, e ho rifatto il montaggio dei materiali sonori che loro mi avevano inviato. E diciamo che alcune piccole variazioni possono essere state fatte dalla scaletta iniziale, ma solo per piccoli accorgimenti tecnici, insomma. E questo però non ha assolutamente sconvolto la dinamica compositiva che avevo immaginato. Un goccetto d'acqua per fare. Pertanto, scusate. Pertanto, appunto, dicevo, partire da un aspetto visivo per approdare definitivamente un aspetto sonoro. E questo potrebbe così anche portare a un altro ascoltare, ma anche a un altro vedere. Questa è un po' l'idea di fondo. Niente, ecco, questa è un po' l'informazione che volevo darvi per farvi capire un po' il processo dalla ideazione a poi allo sviluppo finale, che ha prodotto, insomma, questi audio documenti tra l'altro con un titolo sonoro. Questo perché mi è sembrato del tutto naturale, facendo un lavoro proprio all'interno del suono, dare dei titoli sonori sia alla composizione nella sua interezza, che è quello che avete ascoltato prima e che si ascolta dal cofanetto, che praticamente è una porta di accesso ai materiali, e ogni composizione ha il suo titolo sonoro. Quella piccola composizione che si sente all'inizio è praticamente il titolo del brano, dell'audio documento. E niente, ecco, poi ho scelto questo in onore proprio di uno degli autori che ha partecipato, Luca Tigli, che è qui, e tra l'altro anche una cosa che, come dire, vorrei anche dire, anche se non è una cosa, insomma, positivissima, è che l'altro musicista, Stefano Popolo, però purtroppo nel mese di giugno scorso è venuto a mancare, per cui, ecco, vorrei anche dedicare tutta questa serata anche a Stefano, un grande musicista, un grande amico. Ecco, adesso però passerei la mano a Giuseppe. Allora, sì, alcune considerazioni sull'operazione, su quello che abbiamo sentito. Ma intanto comincerei da un fatto, quello che io cercherò di fare in breve, in veste di musicologo chiaramente, è quello di inserire questa operazione all'interno di una genealogia della storia della musica, di un lungo discorso, di una lunga ricerca, di cui questo è un capitolo. Intanto abbiamo capito un fatto, una suggestione visiva a cui noi non abbiamo accesso, noi non vedremo mai il video che ha ispirato, la fonte di ispirazione di tutti gli interventi. La fonte visiva, la fonte di immagini, il filmato, ha fatto sì nel progetto che tutto si trasformasse, tutto in musica, addirittura il titolo. Non c'è nulla che non sia musica. Questo credo sia un elemento importante quando riascolteremo poi, non so, un altro brano come immagino. Cioè, attenzione, vedremo da dove è iniziato questo nella musica. Il testo, anche il testo, è musica. Anzi, diviene musica. Vi ricordo la straordinaria, acutissima polemica di Stockhausen con Luigi Nono, quando Stockhausen accusa Luigi Nono, che pure ha un impegno politico nella trasmissione del messaggio musicale, di impiegare dei testi poetici importantissimi non facendo comprendere, anzi, non facendone comprendere il senso, il significato. Sono frantumati, sono polifonati, sono destrutturati all'interno della costruzione musicale, e Luigi Nono risponde: tutto diventa in me musica. Cioè, tutti i testi, tutto ciò che si sente è musica. Allora, cominciai con un paio di esempi semplicissimi. Uno dei brani più famosi, fino allo stucchevole, pur rimanendo un capolavoro assoluto, di Beethoven è Al chiaro di luna. Cioè, Al chiaro di luna è un brano in cui viene dato all'ascoltatore una suggestione visiva all'inizio, quasi immediatamente visiva, Al chiaro di luna. Quando ascolterai l'andante iniziale, mi raccomando, è Al chiaro di luna. In tutte le pubblicazioni c'è scritto Al chiaro di luna. Tedesco, però adesso ho detto tradotto. Addirittura chi avesse un po' più di informazioni musicali potrebbe sapere che il chiaro di luna sono i riflessi della luna sul lago dei quattro cantoni. Potremmo andare addirittura a un'immagine fotografica molto precisa. Dunque, uno dei brani più famosi di tutta la storia della musica, consegnato inevitabilmente a un sentimentalismo stucchevole, è la sonata opera 27 numero 2 Al chiaro di luna. Ora penso che sappiate, però io parlo facendo finta appunto di cominciare tutto da zero per ragionare su cose che già sappiamo, che questo titolo è stato dato 5 anni dopo la morte di Beethoven. È un titolo posticcio. Cioè, il contrario. Cioè, nel brano mi sono inventato l'immagine visiva e la faccio risultare per tutta la storia degli ascoltatori a monte. È la famosa sonata Al chiaro di luna. L'indicazione viene data nel 1832 dal re Astab, fece una recensione in cui disse, in quella che è la caduta sentimentale inevitabile dell'ascolto, di tutti gli ascolti, lui disse: ascoltando questo straordinario primo movimento ho avuto come l'impressione di riflessi del chiaro di luna sul Canton Ticino, sui laghi dei quattro cantoni, eccetera. E al volo tutti gli editori, tutti, tedeschi, francesi, italiani, spagnoli, pubblicano e cominciano la ristampa della sonata opera 27 con Al chiaro di luna, sapendo che questo avrebbe significato un successo strepitoso. Ma qui mi piace per un motivo, perché in realtà il povero Beethoven non sa niente, è morto nel 1827, siamo nel 1832, Beethoven aveva avuto già un problema nella pubblicazione, nella prima pubblicazione. La prima pubblicazione chiaramente non porta questo, questa immagine, questa suggestione visiva. Non ci sono suggestioni visive. L'unica cosa che si era permessa a Beethoven di fronte a qualcosa che appariva al suo udito interiore, a quella data è già sordo, come nuovo, è di non chiamarla sonata opera 27, ma sonata quasi una fantasia. Titolo fantastico, veramente apre un universo di suggestioni. Sonata quasi una fantasia, cioè una struttura chiusa, un'ex struttura classica del grande classicismo, da Haydn a Mozart, messa a posto ormai dallo stesso Beethoven, codificata nei tre o quattro movimenti con l'allegro, l'andante adagio, il trio, cioè lo scherzo con trio, l'allegro finale, non si sfugge da quello, la forma sonata del primo movimento, il secondo in genere abbia un tema con variazione, il terzo ovviamente col trio alla conclusione, il quarto nel 90% dei casi è un rondò. Cioè, per chi sa un po' di musica, mi capisce subito, è come parlare di un sonetto. Sono due quartine e due terzine, non è che tu puoi fare sonetto quasi fantasia. Se è sonetto quasi fantasia, che significa? Che me lo reinterzi o ci metti dei settenari? O decidi di fare dei cassillabi liberi? Se è sonetto, è sonetto, sono due quartine e due terzine, le forme sono chiuse, tutte le forme della grande tradizione sono leggi, dentro le quali siamo imprigionati. La grandezza della Divina Commedia è che tu vai avanti per 100 canti con terzine incatenate di settenari e questo povero Cristo di Dante Alighieri non può uscire da questo schema. Deve pensare, immaginare, fare paragoni, allegorie, incontri, dialoghi, tutti in terzine incatenate e decasillabi. Non c'è. Non ti salvi. La famosa libertà dell'autore. Inesistente da questo punto di vista. Ora, mi sembra molto forte il modello al chiaro di luna, perché ci dà proprio un problema centrale, e cioè si potrebbe dire, in maniera un po' forse banale, che c'è una tendenza del mondo, cioè chiamiamola mondana e profana, a sentimentalizzare la musica, cioè a trovare e a chiedere in alcuni casi ai musicisti, non finiremo mai, l'elenco dei musicisti a cui viene richiesta la fonte suggestiva, autobiografica o visiva del brano che hanno portato, o l'implorare, questo riguarda, pensate, quasi tutte le sinfonie di Gustav Mahler, l'implorare un soprannome, cioè qualcosa che ci permetta un appiglio alla realtà. Addirittura qui il titolo è stato trasformato in una musica assoluta, e dunque non abbiamo neanche l'appiglio del titolo. Sul titolo potremmo aprire un capitolo lunghissimo. In genere i titoli vengono concordati, un po' come succede nell'editoria oggi, nel mercato editoriale, vengono concordati dall'editore e dallo stampatore, che praticamente estorce il titolo, lo mette lui, dice no, non è, se noi adesso intitoliamo la tua sinfonia Una notte d'estate, svoltiamo. Se mettiamo nel titolo della tua sinfonia Dall'inferno al paradiso, vendiamo il quintuplo, si gentuplica tutto. Cioè cerchiamo di non rendere la musica assoluta, cioè sciolta da qualsiasi aggancio che ci possa condurre. E questo fenomeno, lo dico sempre, dato per scontato che non conosciamo, non siamo tutti esperti di storia della musica, ha portato a uno dei prodotti più straordinari e suggestivi del romanticismo, che è la musica a programma. La musica a programma è un tipo di musica che nasce con un programma, e cioè, faccio esempio, la Sinfonia Fantastique di Berlioz, in cui addirittura insieme alla sinfonia viene dato o agli ascoltatori, oggi in disco o su YouTube, il programma suggestivo che ha creato quelle musiche. Nella prima scena assistiamo al poeta disperato nella sua stanza che ripensa alla sua amata morta e che non potrà più rivedere. Voi sentite questa musica tristissima con il tema del poeta, il tema della donna, dell'amata, defunta, e avete quella che si chiama musica programma o poema sinfonico. Il poema sinfonico nella storia della musica, pensiamo a quelli di Strauss, tutti conoscete Così parlò Zarathustra, Also sprach Zarathustra di Strauss, che è praticamente una traduzione suggestiva della lettura del libro di Nietzsche. E noi spesso perdiamo gran parte del nostro tempo a cercare di capire, ma questo quale capitolo sarà, qui quale cosa vorrà dire, lo vorremmo molto preciso. Ad esempio, nella Sinfonia Fantastica di Berlioz è abbastanza preciso, precisissima la coda, che è poco conosciuta, che è l'Elio. Nell'Elio addirittura c'è un Singspiel, cioè viene narrata la parte. D'accordo? E qui avete una contaminazione che non appartiene a Beethoven, non appartiene alla musica assoluta, cioè c'è proprio questo compromesso con l'elemento della parola. Allora, direi che l'ascolto che abbiamo fatto va nell'altra direzione, va in una direzione dove addirittura la parola poetica stessa si trasforma in assoluta musica. Allora, primo esempio che ho cercato di portarvi è questo famosissimo del Chiaro di Luna, per cui noi adesso dovremo fare uno sforzo titanico per poterla riascoltare dimenticando quel titolo e cancellandolo totalmente dalla nostra mente, dalle nostre orecchie e dalla nostra suggestione. Tutti i nostri ascolti di Al Chiaro di Luna di Beethoven sono stati un tradimento di quelle che saranno sempre nascoste e mai recuperabili, sono state le eventuali suggestioni. Le suggestioni o visive, o sentimentali, o intellettuali. Ha letto un capitolo della Ragion pura di Kant e ha scritto Al Chiaro di Luna, saremo lontani mille miglia dal problema del Al Chiaro di Luna. Ovviamente Al Chiaro di Luna pone un problema interpretativo. Ogni pianista sa che se, soprattutto nel basso ostinato, nel terzino, no, accompagnano la melodia, non fa oscillare e non fa un uso del pedale che ricordi l'oscillazione del mare, il pubblico comincia a fare l'esperto di musica, del tipo: ho trovato poca partecipazione, non sentivo il brano, è troppo veloce lo stacco. Vi consiglio chiaramente alcune interpretazioni di riferimento, quella di Glenn Gould, che distrugge, è l'unico che ignora totalmente Al Chiaro di Luna. Basta che ascoltate la sonata, quasi una fantasia, opera 26 di Glenn Gould. Basta che ascoltate, ovviamente parliamo sempre di pianisti che appartengono alla genialità assoluta, l'interpretazione di Maria Iudina, la sua interpretazione del primo movimento del Chiaro di Luna, dove ignora totalmente l'indicazione al Chiaro di Luna perché non c'è. Dunque, non avere un'ancora visiva o logica o suggestiva rende l'esperienza dell'ascolto un'esperienza quasi una fantasia. Tutte le esperienze diventano quasi una fantasia, sono diventate una costrizione. Secondo esempio. Allora, il primo esempio è quasi una fantasia, è Al Chiaro di Luna. Vi ho accennato poi al fatto che abbiamo un'intera tradizione, che è quella del poema a programma, poema sinfonico. Vi potrei citare una cosa che calza perfettamente con quello che abbiamo visto. I quadri di un'esposizione di Mussorgsky, in cui Mussorgsky all'amico Herman dedica la versione, ovviamente per pianoforte, non quella per orchestra di Ravel, quella originale, Mussorgsky per pianoforte, e l'esecuzione di Richter del 58, che è una cosa devastante, fantastica, perché Richter ha appena avuto la notizia di minacce di invasione da parte dell'Unione Sovietica, che trasforma in una totale marcia funebre tutti i quadri in esposizione. La porta di Kiev diventa un inno funebre. all'incubo dello stalinismo. Dunque lì c'è la sovrapposizione poi dell'interprete che ha le sue suggestioni che ti sovrappongono. Tenete presente che noi oggi non riusciamo più ad ascoltare, non intendo sempre il fanatismo dei musicologi, il finale del quinto concerto di Beethoven dopo che Benedetti Michelangeli, in una famosa esecuzione dal vivo, dato che scoppiò un tuono in quel momento, lui stava in sala, era arrivato al momento del raccordo, stava fatta quello con i timpani dal penultimo movimento all'ultimo movimento, per cui c'è l'orchestra che fa un rullo di timpani, poi arriva il trillo del pianoforte e comincia la gloria dell'ultimo movimento, quinto concerto pianoforte orchestra. A un certo punto era una giornata temporale e fuori dalla sala scoppia un temporale, proprio quando lui deve attaccare. Lui non attacca, aspetta che il rombo del temporale arrivi alla stessa altezza, alla bemolle con cui deve attaccare il trillo e dal temporale, dal rullo del tuono direttamente attacca il trillo e fa il finale. Ovviamente il pubblico va in una specie di delirio dionisiaco per un'esperienza simile di suono. Dunque dovete anche sovrapporre le interpretazioni musicali. Ma vi dicevo, nei quadri di un'esposizione, Mussorgsky fa finta di star passeggiando tra i dipinti del suo amico e mentre li guarda li descrive uno a uno come brani musicali. Cioè uno potrebbe dire, d'accordo, suggestione visiva. Ebbene, noi abbiamo una letteratura che sta impazzendo perché non riusciamo a individuare uno dei quadri dell'amico che possano corrispondere alla descrizione, chiaramente. Cioè siamo una specie, ovviamente ci sono i saggi di ogni musicologo che dice no, credo di aver trovato, non era un quadro, era un acquarello. Non era questa mostra per un tentativo abbastanza ridicolo di trovare una corrispondenza esatta tra il dipinto e la descrizione che viene fatta. Anche in questo caso, nel caso di Mussorgsky, è costretto a mettere i titoli. Deve mettere i titoli perché è bello sapere che tu un brano si intitola Il Gobbo. Ok, quando sento il ritmo sincopato, immagino un gobbo che cammina. Per cui si potrebbe dire che il 90% dei titoli musicali sono compromessi con il mondo, sono dei compromessi che il musicista è costretto a fare. Secondo velocissimo esempio, poi col terzo chiudo, ancora più veloce, che mi ha ricordato ovviamente, mi ha fatto venire in mente subito l'esperienza che ho fatto nell'ascolto delle tracce dell'esecuzione dei brani di Pietro, è questo. C'è un brano di Luigi Nono, io credo che l'influsso più forte sia Luigi Nono. Io credo nella coscienza collettiva di tutti i musicisti di ricerca. E sono anche convinto di un fatto, lo dico, anche perché ovviamente mi auguro e spero che chi non conosca Luigi Nono poi si getti all'ascolto di Luigi Nono, che sia uno dei pochi musicisti che oggi, senza battere ciglio, mettiamo e metteremo vicino a Beethoven, a Mozart, a Bach e a Mahler, senza nessun problema. È stato un gigante. La fortuna che abbiamo ancora a conoscere tanto di Luigi Nono. C'è un brano di Luigi Nono, un quartetto per archi, che è ispirato ai frammenti di Hölderlin, Adiotima, Still, Adiotima, Silenzio, Adiotima, Fragment. E dunque è un quartetto d'archi che suonano ispirati, suggestione in questo caso vocale, cioè poetica, a dei versi, dai frammenti di Hölderlin, delle poesie della Torre, delle poesie quando Hölderlin era ricoverato nel manicomio, o meglio era ospitato dal falegname Zimmer, ormai totalmente fuori dalle capacità razionali che vengono richieste per poter vivere sulla Terra. Ora, in questo straordinario brano, gli esecutori, solo gli esecutori, leggono e conoscono i versi e mentre suonano se li devono cantare tra loro nella mente in silenzio, mentre voi che ascoltate, noi che ascoltiamo, non percepiamo nessuno di quei suoni, cioè non sappiamo a cosa sono ispirati. I quattro esecutori, se non li hanno memorizzati, non c'è un problema, perché sullo spartito sono scritti. per cui quando la viola attacca un suo frammento c'è quell'elemento. Ah, non c'è solo l'indicazione mezzo forte, sforzando, piano, pianissimo, a parte che tutta l'esecuzione dei frammenti va dal piano dalla P a seppi, non c'è altro, P e seppi, dunque è tutta una grandissima indagine su un problema che Luigi Nono si pone negli ultimi anni della sua esistenza. La cosa più difficile è ascoltare il silenzio, per cui sono esercizi continui sull'ascolto del silenzio. Ora, in questo brano, come vedete, che vi sto raccontando, i quattro esecutori posseggono un'informazione suggestiva e fondamentale, e Luigi Nono richiede che loro la debbano sublimare e trasmettere solo ed esclusivamente attraverso l'elemento sonoro. Basterebbe poco, ovviamente alla prima esecuzione sia l'editore sia gli organizzatori hanno chiesto a Luigi Nono: non potresti distribuire un Debliane a tutti gli ascoltatori perché è molto suggestivo immaginare che il quartetto suona e io mi leggo il frammento di Hölderlin che dovrebbe aver ispirato, se poi l'ha ispirato non lo sappiamo, quel brano. E Luigi Nono l'unica cosa che concede è la partitura, cioè che nello spartito, però chi è che legge lo spartito di Ginono, cioè, ci sono, per lui sarebbe l'ideale che fosse trasmesso come segreto da esecutore a esecutore, cioè che il quartetto La Salle, che fu il primo, il secondo è l'Artitti, nel momento in cui vanno ad eseguire il vecchio quartetto, uno dei vecchi quartetti, suggerisca mormori nell'orecchio delle persone, dei nuovi esecutori, i versi che stanno come in una base mistica, esoterica, in un'esecuzione a cui noi non accederemo mai, noi non accederemo mai a quei versi, ma non perché vogliamo che ci escluda da quei versi, ma semplicemente perché quei versi servono a far sì che si crei musica, cioè serve a far sì che il vibrato del secondo violino cambi. Sono finalizzate come se fossero esercizi ginnici che nessuno di noi deve fare. Se un violinista deve fare delle flessioni prima di suonare, noi dobbiamo farle noi. Servono a lui. Ultimo esempio di questo brano di Pietro. Questo è un brano che appartiene a una, a mio parere, a una delle tradizioni poeticamente più commoventi della storia della musica, che è la partecipazione di tutti i propri amici, cioè della propria, di una collettività. Ricordate che questo è il frutto, una delle cose più belle è leggere tutti gli esecutori di tutte le tracce, poeti, vocalisti, poetesse, scrittrici, artisti, artisti di ricerca, artisti non di ricerca, eccetera. Ovviamente a chiunque ha pratica più o meno quotidiana con la musica viene in mente Carnaval di Schumann, un brano in cui Schumann sogna e realizza che ogni brano non lo può chiedere espressamente, non lo può chiedere espressamente per un motivo molto semplice, non sapevo la notizia che ha dato Pietro alla fine, non lo può chiedere perché quasi tutti questi suoi amici non ci sono più. Per cui in Carnaval Mendelssohn, Chopin, Schubert suonano, cioè sono i brani, sono personaggi sonori, si definisce, è un carnevale, per cui c'è Arlecchino, c'è Colombina, eccetera, in realtà c'è Chopin che arriva e suona, c'è Mendelssohn, c'è Schubert, c'è Clara, c'è Estrella, la sua fidanzata di un tempo, tutto il brano è costruito sulle note Asch, in tedesco La, La bemolle, Mi bemolle, Do e Si, perché in tedesco le note sono con le lettere dell'alfabeto, per cui puoi giocare, no? Bach gioca sul suo nome, Si bemolle, La, Do e Si, naturale, cioè quando Bach vuole firmare un brano lo suona le sue note, il B è Si bemolle, A è La, Si bemolle, La, C è Do e H è Si naturale, per cui se voi fate questo motivetto e fate pronunciate la parola Bach, come vedete quello che succede qui, cioè se io vi faccio sentire adesso, avessimo, ce l'abbiamo il pianoforte, dovremmo anche farlo, vi suono il nome Bach, probabilmente quasi nessuno di noi, di voi avrebbe detto Bach, è lui, è chiaro. Nel Carnival c'è Ash, che è la cittadina natale di Estrella, ma soprattutto sono tre lettere che sono contenute nel cognome Schumann, per cui tutta la composizione è detta da questo. In Carnaval poi c'è la marcia finale dei figli di Davide contro i Filistei, che sono tutti questi amici che sono stati grandi, coraggiosi di fare una musica nuova, una musica assoluta, e che si presentano davanti a noi. Qui siamo prima del concerto per violino e delle variazioni finali di Schumann, che invece, però qui siamo un po' più inquietante come panorama, sono il prodotto di sedute spiritiche che fa Schumann negli ultimi due anni della sua vita per poter incontrare di notte Schubert, Mendelssohn, Chopin, e credo che sappiate che gli ultimi brani di Schumann, prima del tentato suicidio, del ricovero nella clinica e poi del suicidio finale, sono tutti su temi che lui espressamente dice ha ricevuto dall'aldilà, da Schubert, da Mendelssohn, in un'occasione da Schubert, che gli ha detto che lo ha ricevuto da Beethoven, per cui addirittura siamo una sorta di paradiso dei musicisti dove si frequentano. Il quartetto degli spiriti, la relazione sugli spiriti, è questo tema, il concerto di violino è un tema incredibile, che sembra veramente venire dall'aldilà, ed è venuto. Dunque c'è un elemento tra i più belli, secondo me, di questo ascolto, di questa esperienza, di questo oggetto che è totalmente musicale. Non c'è una cosa scritta, se non l'indicazione per dire che non c'è una cosa scritta, e cioè l'unica che quando uno poi lo scarica potrà leggere, come nel Carnival di Schubert, ci sono tutte le persone oggetto di stima, ammirazione, amicizia, la bellezza di un'avventura insieme, che è l'avventura di fare musica, poesia che diventa musica, un oggetto che diventa un oggetto musicale, e che è stato uno dei grandi sogni di Schumann. Anche nel caso di Schumann, vi ricordo che tutte le indicazioni del Carnaval sono date postume dallo stesso Schumann, cioè dopo la conclusione del brano, su istigazione, forzatura dell'editore, perché altrimenti il brano era un enigma, cioè noi avremmo visto venire in scena qualcosa che ci ricordava Chopin. Uno dei più bei Chopin lo trovate fatto da Schumann. Vedevamo un Bach entrare, vi ricordo che Mendelssohn fa conoscere a Schumann la musica di Bach, e Bach è come se risorgesse in quel momento, e le indicazioni che lui dà ovviamente sono, come succede per i profani, un appiglio. Dunque, direi che qui voi avete un oggetto esoterico e tutte le indicazioni, le poche che vengono date, come succede in tutta la storia della musica, fa parte e riguardano i profani, cioè i profani che devono in un certo senso entrare in questo mondo. Finisco qui perché mi sembra che spero di aver dato alcune chiavi di lettura dell'opera. Grazie, mi sembra che siamo entrati nel vivo. Pietro, sì, sì, no, insomma mi meraviglia, no, questi accostamenti che Giuseppe fa, insomma, anche perché diciamo che come formazione di provenienza vengo proprio dall'immagine, per cui tanti elementi, tanta storia e tante esperienze musicali non ne ho, insomma. Però ecco, posso in questo caso ripetere una frase che sta nella descrizione che io, ecco, l'altro aspetto è che c'è, oltre ai 5 audiodocumenti che troverete inquadrando il QR code per accedere ai materiali che saranno sulla pagina di Folder, no? C'è una descrizione, quella che ho tentato di fare, insomma, prima, però l'ho registrata tutta a voce, per cui non ci sono testi, non ci sono immagini, proprio per stare totalmente per quello che è possibile all'interno dell'ascolto e del suono, appunto. E lei ha scritto questa, insomma, piccolo sunto, forse, diciamo, un po' di tutto loro. Da un documento visivo per approdare, no, al sonoro, e forse a un altro vedere e a un altro sentire. Ecco, questo era un po' una sorta di lancio. E poi un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente, quello che diceva Giuseppe a proposito, no, del desiderio, no, di vedere, no, oppure di avere delle indicazioni, no, testuali o quello che sia, per poi avere una suggestione o comunque un'indicazione, chiamiamola così, del materiale sonoro che tu stai ascoltando. E vorrei raccontare questo aneddoto proprio con Marco Ariano, tra l'altro uno degli autori che è qui presente. Se ti ricordi, Marco, quando facevamo la prima presentazione delle fotopartiture, un lavoro di ormai qualche anno fa, che descrivo brevemente, erano delle immagini che ritagliate in pellicola, trasparenti, per cui poi montate su dei pannelli retroilluminati, per cui visti in trasparenza, e praticamente con Marco avevamo ritagliato queste forme, diciamo così, astratte, per fare dei tre brani, no, da tre partiture proprio, fatte di immagini, appunto, fotografiche. E la prima volta che vi presentammo a Ciampino, in questo un festival che aveva ideato proprio Marco, e avevamo deciso in maniera molto coerente, insomma, cioè che le fotopartiture le leggevano solo i musicisti che stavano interpretando, praticamente. E invece c'è stata una sorta di sommossa popolare, perché no, la gente ha dovuto per forza, cioè no, noi, anche noi vogliamo vedere, alla fine abbiamo dovuto, insomma, fargliele vedere, perché sennò era, come dire, una sorta di affronto al senso comune, non so come dire. Ecco, per dire, ecco, chiudo parentesi sotto questo altro aspetto. E ecco, qui la cosa un po' che mi dispiace è che ci sono pochissime persone che hanno collaborato, non avrei voluto vedere di più, però ecco, da Marco Ariano, Luca Tilli, poi Angelo Loreti, che è stato l'artigiano che ha realizzato il cofanetto, Marco Resovaglio, che ha fatto tutto il lavoro di post-produzione, messaggio, insomma, per me è una fonte anche di ispirazione e di conoscenza, veramente una persona, una sensibilità al suono fuori dal comune. E non so se mi vedo altri, Naoya Takahara, che è lì, che è stato un altro degli autori, dei personaggi sonori, così voglio immaginarli. E come giustamente dicevi te, cioè questo fatto, infatti, come ho sempre scritto, insomma, l'audiodoc Soundtitle vuole essere un momento di incontro e di relazione, cioè vuole proprio proporsi in questa veste. E sì, vabbè, io ho avuto l'idea, insomma, tutta la concezione, le domande, via discorrendo, ma se non ci fossero stati tutti questi autori, questi scrittori e musicisti, che con un gesto veramente di enorme generosità, perché non è, cioè, quando io proponevo, no, la partecipazione, cioè, non era facile per me spiegarla, specialmente all'inizio, perché ancora non capivo bene quale potrebbe essere stata la via dei risultati o meno. E poi ogni volta, compreso l'ultimo, il quinto che abbiamo fatto, sì, c'era la scaletta, c'era tutta la parte visuale, ma poi alla fine il risultato finale veniva nello studio Pesci Rossi di Marco Resovaglio, e lì veniva il risultato finale, per cui alla fine di tutto questo percorso usciva fuori no, questa specie di sì, una conformazione di un senso, no, del prodotto finale, che inimmaginabile all'inizio, per cui c'erano anche, oltre alla generosità, c'erano anche come dire, posti in una, non voglio dire un rischio di disacqualitivo, però insomma poteva essere anche un risultato che portava a dei fallimenti, perché appunto non sapendo no, che cosa poteva uscire fuori, e per cui c'è stata questa forma di generosità, ma anche di volontà di sperimentare, ecco, questo è l'altro elemento, e non a caso sono tutti, quasi tutti, autori che dialogano e si intersecano all'interno del mondo di sperimentazione e ricerca. Questo è l'altro elemento importante. E, non so, poi. Potrei l'altro brano, però devo solo aggiungere una cosa. Sì. Sì, volevo aggiungere, quando ricordavi la tua esperienza, la tua provenienza dal mondo visivo, ricordiamoci che il problema dell'utilizzo di titoli sonori, non sonorizzati, ma titoli totalmente sonori, si presenta nel mondo dell'arte con i dipinti di Kandinsky, di Paul Klee, di Mondrian, che a un certo punto mettono composizione numero 7, variazioni senza titolo, composizione numero, composizione astratta numero 12, e cioè questo bisogno, questa urgenza di rendere assoluto il dipinto, cioè di non dare questo appiglio che in realtà, come hai fatto l'esempio di Ciampino, fa cadere, precipitare il pubblico, non lo innalza come uno potrebbe immaginare, perché è come avere bisogno assolutamente delle rotelle nella bicicletta, e con quello è sicuro, ti sembra di avere e di poter percepire un senso o di abitare un significato, è cosa che invece l'esperienza musicale in primo luogo è quella di abitare in un luogo che non riconosciamo, no? Che è totalmente, totalmente nuovo. Su questo, insomma, magari non so se intervenire prima o dopo l'ascolto, comunque sono state diverse suggestioni, anch'io sento di dover dire qualcosa su questo. Intanto per cercare di capire, perché io da parte mia sottoscriverei da inizio alla fine quello che c'era Giuseppe, per rispetto alle dinamiche anche dell'editoria nel forzare un po' la mano a certe interpretazioni, lo dico anche consapevole di essere uno dei pochi che questo non ha mai voluto farlo, ma so che stiamo giocando un altro gioco. Le dinamiche dell'editoria intesa in senso industriale, così come esisteva anche non soltanto ai giorni nostri, ma anche all'epoca del secolo scorso e quella ancora prima, effettivamente va in questa direzione. Ma perché? Perché è guidata dal marketing. Il marketing non è una cosa così recente, è una cosa che esiste già da parecchio tempo. Ma io vorrei andare ancora oltre, ma perché il marketing tende a dare questo tipo di rassicurazione al pubblico, cioè questo tipo di risposta prima che la domanda sia stata posta? Perché è rassicurante, appunto, perché tendenzialmente più o meno tutti, più o meno, abbiamo bisogno di essere rassicurati, ma l'arte non ha questa funzione, io credo. L'arte in realtà spesso si manifesta nel destabilizzare le nostre certezze. E questa, per come la vedo io, è la funzione principale dell'arte in tutte le sue forme. E su questo si può iniziare un percorso che non si sa dove ci porterà. Questo, attenzione, vale per la musica come per qualunque altra manifestazione artistica, vale tanto anche per le arti visive. Quando ci troviamo davanti a un quadro, magari un quadro di pittore concettuale o comunque soprattutto delle correnti più recenti, c'è sempre la necessità di chiedere cosa vuol dire, di sentirsi spiegare cosa significa questo. E questo a sua volta genera, da parte di chi lo guarda, a meno che non sia un esperto, genera un senso di sudditanza psicologica rispetto all'opera. Si sente non in grado di interpretarla correttamente, poi cosa voglia dire correttamente questo non nessuno lo sa esattamente, e si sente in qualche modo nella necessità di essere guidato in questa interpretazione. E questo secondo me è il grande equivoco del nostro tempo, perché l'arte non ha bisogno di questo, l'arte forse non ha neanche bisogno di noi, però comunque non ha bisogno di questo, di questa funzione rassicurante, perché semmai esiste proprio per fare l'opposto. E su questo devo dire però ci si trova, cioè non siamo in tanti a pensarla così probabilmente, però per qualche motivo ci incontriamo. E il fatto che siamo qui oggi nella dimostrazione, il fatto che ci siamo incontrati con Pietro, il fatto che ci siamo incontrati anche con voi che siete qui, ma questo capita regolarmente. Io non posso non citare il nostro comune amico che è Alberto Pignotti, parlando di queste cose, che immagino voi conoscerete tutti quanti, che ha sempre con decisione restituito al mittente questo genere di richieste. E con Alberto ci siamo trovati la prima occasione che abbiamo avuto di collaborare, quando ancora non stavamo in questo spazio, stavamo a Monti in via Urbana, nella galleria Conta stava in via Urbana. La prima collaborazione con Alberto è stata una mostra che si chiamava Controverso e aveva come sottotitolo Arte per fraintenditori. Proprio perché, dice Lamberto, io lo sottoscrivo in pieno, l'arte non ha bisogno di essere compresa, di essere spiegata, ma ha bisogno di essere fraintesa. E questo, detto dall'artista, ha un valore dirompente, secondo me, perché quello che, il messaggio è quello che vedi tu, che stai guardando la mia opera, vale esattamente quanto quello che vedo io. Non c'è differenza. Nel momento in cui l'opera è stata concepita e esiste, a quel punto è a disposizione di chiunque che ci può mettere la propria interpretazione. Perché andare a cercare quella di qualcun altro, soprattutto, come nei casi che abbiamo visto prima, ci diceva Giuseppe, è stata imposta all'insaputa dell'autore che l'ha realizzata. Quindi questo ci fa pensare. Poi sul perché ci sia questa necessità e su quanto questa necessità sia spontanea o indotta, ci si potrebbe parlare per giorni e per mesi. Vorrei aggiungere una cosa. Sì. Sì, sì, interrompiamoci perché sì, sì. No, perché mi viene in mente, è solo un suggerimento bibliografico perché sono andato troppo lungo. Uno degli articoli, degli scritti più intelligenti e esilaranti di Luigi Ghirri è quello in cui lui racconta quando venne chiamato dalla RCA per fare le copertine dei dischi. Doveva fare le copertine, Ghirri ha fatto delle straordinarie copertine per dischi. Di musica classica, una serie di liceo di musica classica, e poi per Lucio Dalla, Carboni, eccetera. E lui racconta del fatto che la casa editrice, la prima cosa su cui punta o punta tutto, è la copertina. No, pensate questa quanto è stata, quanto è sodente, cioè non c'è immagine. E dunque non esiste che non ci sia una copertina chiara. A un certo punto, per un disco di Lucio Dalla, Ghirri aveva pensato di mettere in copertina come appare il viso di Lucio Dalla nella camera oscura, cioè capovolta, a testa in giù, per cui dà a loro un'indicazione appena un po' ardita. Facciamo una copertina dove Lucio Dalla è a testa in giù. Non era neanche immaginato, questi gli hanno detto sei licenziato in tronco, non se ne parla in nessuna maniera, mi ha detto ma si riconosce che Dalla è la sua faccia, è semplicemente capovolta, e è arrivato a dire al limite il discografico capovolge il disco, cioè lo mette al contrario per diventare dritto, non è un problema. E si è andato a vedere il disco di Luigi di Ghirri dedicato a Dalla e la faccia è ovviamente è dritta, perché non si può assolutamente immaginare una cosa così oscena come capovolgere l'immagine. E lui, l'unica cosa che si è preso come consolazione è che nell'immagine del retro del disco piccolina c'è quella originale, cioè quella che lui avrebbe voluto. Considerate che comunque anche con il CCP lui ha un problema grosso, perché non vuole scritte sulla copertina, vuole che l'immagine sia assoluta. Quindi il discografico gli dice ma come, cioè non metto il titolo sul libro, per cui i libri, i dischi, noi adesso non abbiamo tempo, ma la storia delle copertine dei dischi è una storia, se volete, esilarante proprio su questo continuo controllo e ritenere che il pubblico, fondamentalmente un pubblico analfabeta, celebro reso, per cui bisogna dargli delle cose semplici, assolute, assolutamente non rischiamo, e la convinzione è fortissima riguardo a questo. E qui è sintomatico, diciamo che rappresenta proprio l'estremo, cioè ci siamo portati veramente a un estremo importante, ed è importante per me, per noi che lo abbiamo pubblicato, proprio arrivare a questo risultato lungo un percorso che abbiamo sempre cercato di seguire in coerenza con queste, cioè, ovvero all'opposto rispetto a queste considerazioni, in coerenza rispetto a quello che dicevo prima. Chi conosce le nostre produzioni anche di dischi sa bene che spesso il disco è l'incontro tra il musicista o i musicisti che l'hanno realizzato e un artista visivo. Abbiamo tanti dischi che hanno in copertina delle opere, spesso delle volte sono state fatte, realizzate appositamente dall'artista per quel disco, dopo averlo ascoltato tante volte, e quindi ci troviamo ad avere dei dischi che portano la copertina spesso di Giulia Napoleone, per esempio, dello stesso Pignotti che citavo prima, di tanti altri artisti, che hanno accettato di entrare sia da una parte che dall'altra e di lavorare sullo stesso piano per realizzare in qualche modo uno scambio, un coinvolgimento che poi spesso noi arriviamo anche a coinvolgere l'artista nella fase realizzativa, l'artista visivo nella fase realizzativa, mentre si scrive la musica, mentre si compone istantaneamente. Noi qui, chi ci segue lo sa, lavoriamo tanto sulla composizione istantanea, che rende più semplice questo processo. Ma appunto, perché dico questo? Non per dire noi siamo una casa editrice illuminata e gli altri sono cattivi e noi siamo buoni, ma perché in realtà il risultato, per come la vedo io, è sempre un elemento secondario, cioè è importante ovviamente, poi sono le cose che restano, però quello che mi interessa di più in generale è il processo più che il prodotto. Questo soprattutto se stiamo parlando di processo artistico e di prodotto artistico. Quindi l'opera è importante perché diciamo, scaturisce da un processo ben preciso, e questo dà senso a quello che si fa, lo dà all'artista, agli artisti prima di tutto, lo dà anche a chi lo deve pubblicare, e io penso lo dà anche a chi lo ascolta, a chi lo fruisce in qualche modo, perché ci si mette qualcosa di sé. Per questo poi alla fine sollecito sempre tutti quanti a dare la propria interpretazione di quello che ci si trova poi a fruire così da di fronte. Quindi il processo prima del prodotto, anche su questo con Pignotti ci siamo intesi sin dall'inizio, ma so che molti di voi lo condividono. Poi non voglio dilungarmi troppo adesso perché magari passiamo al secondo ascolto, però c'è un altro aspetto altrettanto importante che mi piace sottolineare di quello che è stato detto prima, sia da Giuseppe che da Pietro, e che è qualcosa che si scorge appunto semplicemente leggendo i crediti di questo lavoro, e cioè il fatto che questo lavoro nasce e scaturisce proprio da una comunità, dalla ricerca di una comunità, che è quello che stiamo facendo anche adesso. Cioè stiamo di fatto formando una comunità che si evolve, che non è rigida, ovviamente non è un clan per cui si entra e ne fa parte soltanto chi c'è dall'inizio, ma è la ricerca di condividere un approccio alle cose, che non è tanto una questione di idee e tantomeno di ideologie, ma un approccio anche molto pratico alle cose, che però è appoggiato sul sentire più che sul pensare, e questo credo che sia qualcosa che viene in maniera assolutamente spontanea. Per questo mi piace parlare di riconoscenza quando succedono queste cose, quando succedono anche quando ci sono occasioni come questa che stiamo vivendo in questo momento. È bello pensarlo mentre succede, perché poi spesso ce ne rende conto a posteriori, è bello esserne consapevoli. Quindi per questo, cioè, questo è quello che dà senso a quel, tutto quello che facciamo, questo è quello che dà senso a questo spazio che ospita le nostre iniziative, questo dà senso alle collaborazioni che di volta in volta diciamo decidiamo di intraprendere. Le altre logiche evidentemente, penso si sarà capito, non ci appartengono, non ci interessano, seppure siamo consapevoli che vanno considerate. È chiaro che chi prende la responsabilità, oltre che il compito di produrre e di pubblicare delle opere, qualunque genere di opera, sa che deve fare comunque i conti anche con un aspetto puramente economico. Però io penso che questa debba essere non la finalità di chi esercita la professione editoriale, ma debba essere semmai una conseguenza auspicabile, il fatto di reggere economicamente. Se non ce la si fa, l'importante è aver fatto bene quello che si è fatto, non è obbligatorio andare avanti in eterno, però l'importante è lasciare tracce che poi consentano anche ad altri, se ci si ritrovano ovviamente, di seguire quel percorso. Beh, questo è quello che mi sentivo di condividere con voi. Io, se Pietro non vuoi aggiungere qualcosa... Sì, una piccolissima cosa, un altro aneddoto sul titolo. no? Di cui stiamo parlando. Io sono anni che lavoro sul titolo, in varie maniere, però volevo raccontarvi questa cosa qui. Anni fa feci un video con Alessandra Cristiani, una danzatrice, e il titolo era un frame del video. Partecipo a un festival che si chiamava Italian Experimental Film, non so come ci sono andato a finire, però comunque partecipavo a questa cosa. E praticamente hanno fatto l'elenco dei titoli, no, da inserire dentro al catalogo. E io ho detto, vabbè, guarda, il titolo è questo, il frame del titolo. Non vi dico le telefonate dall'editore del catalogo. Dice, no, ma come possiamo? Dico, guarda, dico, io le ho mandato il frame, lei lo rimpiccolisca fino a, no, che possa essere utilizzato. No, no, poi mi ha fatto chiamare dal grafico, insomma, una storia lunghissima. Alla fine io, determinato, no, guardi, è questa. No, alla fine esce il catalogo, me lo vado a scorrere, oh, dico, male, ce l'hanno messo, in un punto c'era, poi era ripetuto in un altro punto e non ce l'hanno messo. Secondo me mi hanno fatto proprio un dispetto, una cosa del genere. Ecco, per dire, no, quanto poi queste, come dire, questi processi così diversi, perché poi è solo una questione di diversità, però poi, ecco, quanto possono essere accettati o meno è sempre un fattore aperto. È anche normale che non sia così. In realtà non possono farlo, perché destabilizza. Perché se succede una volta può succedere sempre, e fa crollare tutto il castello poi alla fine. Cioè, in realtà questo è il potere eversivo dell'arte. Tu lo stai esercitando caparbiamente, ma devi essere consapevole che tendenzialmente il destino di chi fa questo è di essere emarginato o marginalizzato. Noi lo sappiamo. Perché il sistema funziona così. Noi non per essere antisistema, ma noi abbiamo un riferimento alternativo e dobbiamo sapere che il trattamento sarà necessariamente quello. Ecco, un'ultima cosa, poi passiamo a quest'altro ascolto, è che quando le risposte non sono più esaustive, forse è il caso di cambiare le domande. Ecco, questo era un po' il sumo. Mi sembra un'ottima sintesi questa. Sintesi. Va bene. Allora, io procederei nuovamente con l'ascolto. Speriamo la sala. Speriamo che va tutto. Sì, in realtà abbiamo fatto tutte le prove, comunque c'è stato un momento di esitazione, però per fortuna non si è interrotto. To those who are convinced that boredom is a symptom of lassitude, of a lazy inhibition against interest and contempt, I say, algo agora se abriu. Vistos de perto. A visão de algo escuro, sobre fundo escuro. O céu e a terra. Não sei mesmo o que é. Parece um voo. São um campo minado. Vocês estão com medo? Silencio. Y stavo tornando in basso, ho avuto grosso la direzione. Ma sono stata a buon interno e più buonina la direzione. Ma sono vaccino come ti lasci iniziare a battere, se ti sei cercato a tacciare anche se. E l'âme descend, ou alors on tombe. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? We must still try, you used to tell me, despite our erstwhile failures. We must keep the end in sight, although we know that it grows distant. O vazio, did you ever really think that I'd forgotten to continue? Se descobre a that neither of us has ever had a choice. A diet of corrosion, scourged and riven from its terminus. So many loose ends, so much grown familiar. So many souls, so many vassals bound and plunged beneath the current. The guilty free their hands and swim, the innocent fend with their mouths and drown. Eu penso que o silêncio seja o estado movediço das árvores. A luz adoece com as quando árvores. Quando ancestrais. There is no reason to withdraw from the discomfort of abandon as long as it's identified as just and only that. We are all fond of our ways, of our distrait associations. We all accede to barriers we'll have to try to locate if we're ever to move past. And who's to say we're not? An absurd disapprobation, even in the rhetorical. Who's to say anything? Who has spoken thus far? Who's to say anything? If I have the chance to say something, just a vida é uma fronte. This is what attracts us to the coming of catastrophe. Thank you, right. Which of his last virtue, the disruption of the but if that will leave an offering of confused with none, just like the isn't this what one of the questions of agency that is in Turkey has to be in the car. So what would they have to be in the car? No, they all come to the end of the road. No, they all come to the end of the road. And then they just go to the end. Personaggi sonori. Per i suoni, Cristian Muela, Simone Pappalardo, Steven Seidenberg. Per i testi, Prisca Agustoni, Edmilson De Almeida Pereira, Steven Seidenberg, Naoya Takahara. Sceneggiatura visiva, Marco Giovenale. Post-produzione e missaggio, Marco Resovaglio. Ideazione, regia e montaggio, Pietro D'Agostino. Sceneggiatori visive l'ho realizzato io, poi sempre per tentare, no, di scombinare un po' le cose usuali che ormai si erano manifestate, questa sceneggiatura sonora visiva, scusate, l'ho chiesta e l'ha realizzata Marco Giovenale, e del quinto audio doc invece Alberto D'Amico, un altro carissimo amico appunto, e niente, poi ecco, vorrei chiudere con veramente un grande ringraziamento, un grazie di cuore a tutti voi e a Giuseppe Carrera, che mi ha meravigliato con questi accostamenti per me veramente, come dire, che apprezzo molto, e anche chiaramente Marco Contini, che ha creduto nel progetto e che l'ha, insomma, poi portato a termine e pubblicato all'interno di questa collana discografica di musica, di cui sono onorato di far parte, perché veramente è la grande sperimentazione, no, in movimento, e anche una grande famiglia. Grazie a tutti. Sempre che non ci sia qualche sollecitazione che viene anche da voi, perché a me non dispiacerebbe affatto, cioè non necessariamente domande, anche riflessioni o qualche altra cosa, insomma. Non ci insegue nessuno, lo spazio c'è, il tempo c'è, se vi va, se no ne parliamo anche informalmente da altri bicchieri di vino. Okay, la seconda, insomma.